Capitolo 27 Vanità e anima irrequieta. Una sera d'aprile Marilla stava rientrando dopo una riunione del gruppo di assistenza parrocchiale. Era tardi e di colpo la donna si rese conto che l'inverno era finito. Anche lei provò il tipico batticuore gioioso che la primavera trasmette sempre a tutti, vecchi o giovani, e allegri che siano. L'anziana signorina Cuthbert non era abituata a guardarsi dentro per analizzare in modo soggettivo i pensieri e i sentimenti che provava. Probabilmente continuò a pensare alla riunione appena terminata, alla cassetta per la raccolta delle offerte o al tappeto nuovo per la cappella di cui si era parlato, ma sotto quelle riflessioni banali scorreva in lei la dolce consapevolezza dei campi rossastri dai quali saliva una foschia tinta di viola e di rosa dagli ultimi raggi del sole al tramonto. Delle ombre appuntite degli abeti proiettate lungo il prato, oltre il ruscello, degli aceri dai rami punteggiati di gemme cremisi che si ergevano immobili intorno al laghetto nel bosco, del risveglio della natura e dei palpiti e dei sussulti che covavano fra le zolle umide e scure. La primavera era ovunque, e anche il passo misurato della donna di mezz'età era più rapido e leggero, grazie alla profonda gioia interiore che provava, senza saperlo. E il suo sguardo affettuoso si posò su Green Gables, che spuntava qua e là nell'intreccio dei rami e rifletteva il sole dai vetri delle finestre, creando mille bagliori di luce. Mentre percorreva il vialetto, Marilla pensò che era bello sapere di rientrare a casa e trovare il fuoco acceso e scoppiettante di legna ben asciutta e la tavola già apparecchiata, al posto della fredda accoglienza che seguiva tutte le riunioni del gruppo di assistenza parrocchiale, prima che Anna andasse a vivere con loro. Perciò, quando entrò in cucina e trovò il fuoco spento e nemmeno l'ombra di Anna, si sentì giustamente delusa e irritata. Aveva raccomandato alla ragazzina di preparare il tè per le 5 precise e ora sarebbe stata costretta a togliersi al volo uno dei suoi vestiti migliori per correre a preparare qualcosa prima che Matthew tornasse dai campi. «Ah, la sistemo io, la signorina Anna, appena rimette piede in casa», brontolò con la fronte aggrottata, mentre con un coltellaccio e con più energia del necessario si aiutava a spezzare la ramaglia per accendere il fuoco. Nel frattempo suo fratello era rientrato e aspettava con pazienza di mangiare, seduto nel suo solito angolo. «Sarà in giro con Diana, a scrivere storie, recitare o fare qualche altra stupidaggine delle sue. Non si domanda mai che ore sono o cosa c'è da fare in casa. Basta, questo andazzo deve finire, ci vuole un taglio netto. Non mi interessa che la signora Allan sostenga che Anna è la bambina più sensibile e intelligente che abbia mai incontrato. Sarà anche intelligente e sensibile, ma ha la testa piena di sciocchezze che non si sa mai come prenderanno forma. Non fa in tempo a finirne una che ne ha già inventato un'altra, ma tu guarda. Sto ripetendo parola per parola quello che ha detto Rachel Lind prima alla riunione, che mi ha innervosita al triplo. Mi ha fatto un gran piacere che la signora Allan abbia difeso Anna, perché altrimenti ne avrei dette io quattro a Rachel davanti a tutti. Difetti Anna ne ha tanti, sono la prima ad ammetterlo, ma sono io che la sto educando, non Rachel Lind, che riuscirebbe a trovare pecche perfino nell'arcangelo Gabriele, se per caso abitasse da queste parti. Ciò non toglie che Anna non deve andarsene a zonzo in questo modo, visto che per giunta le avevo ordinato di badare alla casa oggi pomeriggio. Con tutti i suoi difetti, finora non mi era mai sembrata disobbediente o inaffidabile. Mi secca molto scoprire che invece lo è. Beh, ecco, non saprei, intervenne a quel punto Matthew, il quale era saggio e paziente, ma soprattutto affamato e aveva preferito non interrompere Marilla, lasciandola sfogare liberamente, anche perché l'esperienza gli aveva insegnato che la sorella eseguiva qualsiasi compito molto più in fretta se si evitava di rallentarla con discussioni inutili. Forse il tuo è un giudizio affrettato, Marilla. Non definirla inaffidabile finché non sai per certo che ti ha disubbidito. Magari c'è una spiegazione. Anna è molto abile in questo. Le avevo detto di stare in casa e lei non c'è, ribatté la donna. Direi che questa volta non le sarà facile darmi una spiegazione accettabile. D'altronde non mi stupisce che tu la difenda, Matthew, lo fai sempre, ma ti ricordo che sono io la responsabile della sua educazione, non tu. La cena fu finalmente pronta e venne consumata che fuori era ormai buio pesto, ma di Anna nessuna traccia. Non stava arrivando di corsa attraverso il ponticello di tronchi, né su per il sentiero degli innamorati, già pentita di non aver fatto il proprio dovere. Marilla lavò i piatti, li asciugò e li rimise nella credenza con la fronte aggrottata. Poiché le serviva una candela per scendere in cantina, salì nella cameretta in mansarda a prendere quella che Anna teneva sulla scrivania. La accese e appena si girò, vide la ragazzina sdraiata sul letto a pancia in giù, la faccia nascosta contro il cuscino. «Santa pazienza!» esclamò allibita. «Anna, stavi dormendo?» «No», fu la risposta soffocata. «Allora, ti senti male?» le chiese Marilla subito preoccupata avvicinandosi al letto. Anna affondò ancora di più la testa tra i cuscini, come se volesse nascondersi agli occhi di chiunque. «Non sto bene, però ti prego, Marilla, vai via e non guardarmi. Sono sprofondata nella disperazione più nera e non mi interessa più chi sarà il primo della classe, chi scriverà i temi più belli o canterà nel coro in chiesa. Sono tutte sciocchezze che non hanno più la minima importanza, perché con tutta probabilità non potrò più andare da nessuna parte, mai più. La mia carriera è finita prima di cominciare. Ti prego, Marilla, vai via, non guardarmi. Da quando in qua mi tocca sentire certe cose? Tuo no, Marilla, è esterrefatta. Anna Shirley, si può sapere che ti succede? Che cos'hai combinato? Alzati immediatamente e dimmelo. Subito, ho detto. Che cosa c'è? Anna obbedì e, sconsolata, si lasciò scivolare giù dal letto. Guarda i capelli, Marilla, mormorò. La donna sollevò la candela e le esaminò la chioma fluente, sciolta sulla schiena. In effetti qualcosa di strano c'era. Anna Shirley, ma cosa hai fatto ai capelli? Sono verdi! Se quello fosse stato un colore di questo mondo, lo si sarebbe detto verde. Sì, ma si trattava di un verde decisamente insolito, spento, simile al bronzo, striato qua e là da fili del rosso originale, che ne esaltavano l'effetto sgradevole. In vita sua, Marilla non aveva mai visto niente di più grottesco dei capelli di Anna in quel momento. «Sì, sono verdi!» confermò la ragazzina con un gemito. «Ero convinta che non ci fosse niente di peggio che avere i capelli rossi, ma adesso so che averli verdi è 1.000 volte peggio. Oh, Marilla, non puoi immaginare quanto sono disperata!» Quello che non posso immaginare cosa diavolo hai combinato stavolta. Ma ho intenzione di scoprirlo e al più presto, ribatté la donna. Forza, scendi in cucina, che qui fa troppo freddo, così mi racconti com'è andata. Era già un po' che mi aspettavo qualche nuova assurdità delle due. Non ti cacciavi in nessun guaio da più di 2 mesi. Me lo sentivo che il momento per qualche brutta novità stava arrivando. Avanti, sentiamo. Cosa hai fatto a quei poveri capelli? Li ho tinti. Tinti? Ti sei tinta i capelli. Anna Shirley, ma non lo sai che è una cosa molto sconveniente? Sì, lo so, è una pessima abitudine, volgare per di più, ammise la ragazzina. Ma ho pensato che valesse la pena di fare una prova una volta sola per liberarmi dei capelli rossi. Ci ho riflettuto a lungo e con attenzione, Marilla, e avevo intenzione di riparare comportandomi benissimo in futuro. Beh, commentò Marilla con il solito sarcasmo, se io avessi deciso di tingermi i capelli li avrei tinti di un colore decente, non di verde. Infatti io non volevo tingerli di verde, protestò affranta Anna. Certo, ho fatto una scelta disdicevole, ma avevo un motivo valido. Lui ha detto che i capelli sarebbero diventati di un bellissimo nero corvino. Me l'ha garantito. Come potevo metterlo in dubbio, Marilla? So cosa si prova quando non ti crede nessuno. E la signora Allan dice che non si deve mai pensare che qualcuno menta finché non se ne hanno le prove. Adesso ho le prove, però. Questi capelli verdi sono una prova più che valida per chiunque. Prima, però, non potevo saperlo, quindi ho creduto a tutto ciò che mi ha detto. Che ti ha detto chi? Di chi stai parlando? Del venditore ambulante che è venuto oggi pomeriggio. Ho comprato da lui la tintura. Anna Shirley, quante volte ti ho detto di non lasciare entrare in casa quei vagabondi italiani? Non voglio che si sentano incoraggiati a passare di qui. Oh, ma io non l'ho fatto entrare in casa, assolutamente. Mi sono ricordata di quello che avevi detto e sono uscita Ho chiuso bene la porta e ho guardato la merce sui gradini. Comunque non era italiano, era un ebreo tedesco. Aveva una grande cassa piena di cose interessanti e mi ha raccontato che lavorava molto per guadagnare i soldi necessari a far venire sua moglie e i bambini dalla Germania. Ne parlava con una tale commozione che mi ha toccato il cuore. Volevo comprargli qualcosa per aiutarlo e a un tratto ho visto il flacone di tintura per capelli. L'ambulante ha detto che il prodotto era garantito, che avrebbe tinto qualsiasi tipo di capello di un bellissimo nero corvino e che il colore non sarebbe venuto via col lavaggio. In un attimo mi sono vista con una bella chioma scura e non ho resistito. Però costava 75 centesimi e io ne avevo solo 50, tutti i miei risparmi. Ma l'ambulante era un signore gentile. Ha detto che era una bambina molto simpatica, quindi me la lasciava per 50 centesimi, anche se era come regalarla. E quindi l'ho comprata. E appena lui se n'è andato, sono salita e ho applicato la tinta con un vecchio pettine, seguendo le istruzioni passo per passo. Ho usato tutto il contenuto del flacone, ma quando ho visto il colore orribile dei miei capelli mi sono pentita di aver fatto una cosa tanto disdicevole. Te lo assicuro, Marilla, e sono pentita ancora adesso. Bene, spero che il pentimento ti serva a qualcosa, ribatté severa la donna, e che questa storia ti faccia aprire gli occhi. Guarda dove ti ha portato la tua vanità, Anna. Cosa si dovrà fare adesso? Proprio non lo so. Tanto per cominciare, dà una bella lavata a quei capelli e vediamo se serve. Anna lo fece subito, strofinando energicamente con acqua e sapone i lunghi capelli, ma non cambiò niente. Fu come tentare di scolorire il suo rosso originale. L'ambulante era stato sincero quando aveva affermato che la tinta non se ne sarebbe andata con il lavaggio. La sua onestà era davvero dubbia. Oh, Marilla, cosa faccio adesso? Domandò Anna in lacrime. A questa storia non potrò sopravvivere. Ormai tutti si erano quasi dimenticati dei pasticci che ho combinato, della torta all'analgesico, di quando ho fatto ubriacare Diana per sbaglio e ho risposto in malo modo alla signora Linde. Ma questa non la scorderanno mai. Diranno tutti che non sono una persona rispettabile. Oh, Marilla, Marilla, com'è fitta la nostra ragnatela quando cominciamo a tessere inganni. È il verso di una poesia, ma è verissimo. E quanto riderà di me Josie Pye? Oh, Marilla, non posso affrontare Josie Pye, non ce la faccio. Sono la ragazza più infelice di tutta Prince Edward. L'infelicità di Anna proseguì per una settimana, durante la quale la ragazzina non mise mai il naso fuori di casa e si lavò i capelli ogni giorno. Al di fuori della famiglia solo Diana era informata del suo terribile segreto, ma aveva promesso di non svelarlo mai. E qui possiamo affermare che mantenne la promessa. Alla fine della settimana Marilla dichiarò risoluta: «Niente da fare, Anna. Questa è la tintura più indelebile che io abbia mai visto. Quei capelli vanno tagliati, non c'è alternativa. Non puoi uscire conciata così». Ad Anna tremarono le labbra, ma si rendeva conto che era vero e con un sospiro affranto andò a prendere le forbici. «Per favore, tagliali tutti in una volta, Marilla, e in fretta. Oh, sento già che mi si spezza il cuore, ma è una sofferenza che non ha niente di romantico». Le fanciulle dei libri perdono i capelli a causa di gravi malattie, oppure li vendono per guadagnare i soldi che servono per compiere qualche eroica buona azione. Non mi dispiacerebbe tagliarmeli per nobili motivi, lo so, ma non c'è niente di speciale nel farlo perché sono diventati di un colore repellente, vero? Mentre li tagli piangerò ininterrottamente se non ti disturba. Mi sembra un evento così tragico questo. Anna pianse. Ma quando salì per guardarsi allo specchio più tardi, era sprofondata in uno stato di calma disperazione. Marilla aveva fatto un lavoro meticoloso. Era stato necessario tagliare i capelli cortissimi, quasi a zero. Il risultato non era proprio splendido, per dirla con grande tatto. La ragazzina si affrettò a voltare lo specchio verso il muro. «Non mi specchierò finché non saranno ricresciuti», dichiarò risoluta. Ma un attimo dopo, d'impulso, girò di nuovo lo specchio. «E invece mi guarderò ogni giorno. Sarà la giusta punizione per la mia leggerezza. Tutte le volte che entrerò in camera mi guarderò e vedrò quanto sono brutta. E non userò la fantasia per nascondermi la verità. Non avrei mai pensato di essere tanto vanitosa, né di essere orgogliosa dei miei capelli rossi, ma adesso mi rendo conto che lo ero. E come? Perché erano lunghi, folti e pieni di boccoli. Oh, come minimo adesso capiterà sicuramente qualcosa anche al mio naso. Il lunedì successivo a scuola, la testa rapata di Anna fece sensazione, ma con suo grande sollievo nessuno indovinò il vero motivo di quel taglio drastico, neppure Josie Pye, la quale naturalmente non si fece il minimo scrupolo a informare Anna che sembrava uno spaventapasseri. Quando Josie mi ha detto così, io non ho risposto, confidò la ragazzina quella sera a Marilla, che stava distesa sul divano in preda a uno dei suoi soliti attacchi di emicrania. Perché ho pensato che fa parte del castigo che mi spetta e che devo sopportare con pazienza. È brutto essere paragonata a uno spaventapasseri e sapessi quanto avrei voluto risponderle, ma non l'ho fatto. Mi sono limitata a lanciarle un'occhiata piena di disprezzo, però poi l'ho perdonata. Perdonare le persone ti fa sentire piena di virtù, non è così? Ho deciso che d'ora in avanti concentrerò tutte le mie energie sull'essere buona e non cercherò mai più di essere bella. È molto meglio essere buoni, lo so, ma a volte è talmente difficile credere davvero a una cosa, anche se la sai. Sul serio, Marilla, io voglio essere buona come te, come la signora Allan e la signorina Stacy. Lo desidero con tutto il cuore e voglio venire su bene perché tu sia fiera di me. Diana mi ha detto che quando i capelli saranno cresciuti un pochino, potrei legarmi un nastro di velluto nero intorno alla testa con un fiocco di lato. Secondo lei mi starebbero molto bene. Potrei chiamarlo il mio turbante. Suona così romantico. Ma sto parlando troppo, vero, Marilla? Mi sa che ti peggioro l'emicrania. Ah, la testa va un po' meglio, grazie. Però oggi pomeriggio il dolore è stato tremendo. Queste emicranie sono sempre più forti. Mi toccherà andare a farmi visitare da un medico. Quanto alle tue chiacchiere, non saprei dire se mi danno fastidio. Ci sono talmente abituata ormai. Era il modo di Marilla per dire ad Anna che le faceva piacere ascoltarla. Capitolo 28. Una ragazza sfortunata e candida come un giglio. Elaine devi farla per forza tu, Anna, insiste Diana. Io non avrei mai il coraggio di lasciarmi andare alla deriva. Io neanche, aggiunse Ruby Gillis inorridita. Passi quando in barca siamo in due o tre e restiamo sedute, ma sdraiarmi sul fondo dello scafo e fingermi morta non ce la posso fare. Morirei sul serio, di paura però. Certo, sarebbe romantico, ammise Jane Andrews. Però non credo che riuscirei a star ferma. Mi tirerei su di continuo per vedere dove sono, se non mi sto allontanando troppo. Ma così, Anna, guasterei tutto l'effetto. Dai, ragazze, un Elaine con i capelli rossi fa ridere, si lamentò Anna. A me non fa paura lasciarmi andare alla deriva, anzi, avere quel ruolo mi piacerebbe tantissimo, però mi sembra comunque ridicolo che lo faccia io. Ruby dovrebbe essere Elaine, perché ha la carnagione chiara e i lunghi capelli dorati meravigliosi. Nella descrizione del libro, la chioma splendente fluttuava nell'acqua. Lo sapete anche voi, ed era candida come un giglio. Ora, anche volendo, una con i capelli rossi come i miei non può essere candida come un giglio. Beh, la tua carnagione è chiara come quella di Ruby, dichiarò convinta Diana. E i capelli stanno ricrescendo molto più scuri da quando li hai tagliati. Sul serio! Esclamò la ragazzina arrossendo di piacere. L'ho pensato anch'io, ma non ho mai chiesto conferma a nessuno, perché avevo paura che mi rispondessero che era solo una mia impressione. Dici che si potrebbero definire castano chiaro adesso, Diana? Sì, e sono veramente carini, confermò l'amica, esaminando con ammirazione i ricci corti e morbidi che coprivano il capo di Anna, trattenuti da un elegante fiocco di velluto nero. Si trovavano in riva allo stagno, sotto Orchard Slope, nel punto in cui una piccola sporgenza di terraferma, orlata di betulle, si protendeva sull'acqua. Da lì partiva un piccolo molo di assi di legno, usato da pescatori e cacciatori di anatre. Ruby e Jane erano state invitate a passare quel pomeriggio di mezz'estate a casa di Diana e Anna si era unita al trio per giocare con loro. Era tutta l'estate che Anna e Diana trascorrevano la maggior parte del tempo libero intorno allo stagno. Il boschetto dell'ozio era ormai acqua passata, dopo che quella primavera il signor Bell, spietato, aveva abbattuto il gruppetto di alberi in fondo al suo pascolo. Anna si era seduta fra i tronchi decapitati e aveva pianto a calde lacrime, pensando, nello stesso tempo, che quella era una situazione decisamente romantica. In ogni caso, si era consolata in fretta, perché, si erano dette lei e Diana, due ragazze di 13 anni che andavano per i 14 erano troppo grandi per un gioco infantile come costruire capanne e rifugi nel bosco. Per giunta, intorno allo stagno, si potevano fare cose molto più interessanti. Pescare le trote dal ponticello, per esempio, era divertente e di gran soddisfazione. Le due amiche impararono a remare e cominciarono a gironzolare sull'acqua con la barchetta dal fondo piatto che il signor Barry teneva ormeggiata per andare a caccia di anatre. L'idea di rappresentare la storia d'Elaine era di Anna. Quell'inverno a scuola avevano letto e analizzato a fondo il poema di Tennyson, perché la sovrintendenza all'istruzione l'aveva incluso nel programma di letteratura per gli istituti dell'isola di Prince Edward. L'avevano approfondito in ogni dettaglio con una tale attenzione e dovizia di particolari che c'era da stupirsi se riuscivano ancora a trovarci un qualche significato. Certo, con quella frequentazione prolungata, la bionda fanciulla candida come un giglio, Lancillotto, Ginevra e Re Artù erano diventate per loro figure reali. E in gran segreto Anna era molto dispiaciuta di non essere nata a Camelot, in quel tempo lontano molto più romantico di quello in cui viveva. La proposta di Anna era stata accolta dalle altre con vero entusiasmo. Le ragazzine avevano scoperto che, allontanando la piccola imbarcazione dal molo con una spinta energica, la corrente la faceva passare sotto il ponte per poi portarla ad incagliarsi su una piccola spiaggia poco più in là, nascosta in una piccola insenatura. Si erano divertite spesso a lasciarsi trasportare alla deriva e per mettere in scena la storia di Elaine non c'era niente di più adatto. Va bene. Io faccio Elaine, cedette Anna, con riluttanza, perché se l'idea di interpretare la parte della protagonista le piaceva molto, il suo spiccato senso estetico esigeva un aspetto fisico adeguato al ruolo, il che era impossibile nel caso specifico e non c'era proprio nessuna possibilità di cambiare la situazione. Ruby, a questo punto tu fai Re Artù, Jane sarà Ginevra e Diana farà Lancillotto. Prima, però, voi due dovete interpretare anche il padre e il fratello. Al vecchio servitore muto dobbiamo rinunciare perché, stando sdraiati sul fondo della barca, non c'è spazio per altre persone. Dobbiamo ricoprire il barco per l'intera lunghezza con un pesante drappo nero come la notte. Secondo me quel vecchio scialle nero di tua madre è perfetto, Diana. Appena lo scialle nero fu disponibile, Anna lo drappeggiò sulla barchetta. Poi si distese sul fondo, con gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto. Oh, che impressione! Sembra proprio morta! Mormorò Ruby Gillis, nervosa, fissando il visetto pallido e immobile sotto le ombre mobili delle betulle. Scusate, ragazze, però a me fa paura. Siete sicure che sia una buona idea organizzare questa recita? La signora Linde dice che sempre gli spettacoli sono abominevoli e immorali. Ruby, non nominare la signora Linde, la rimproverò Anna. Così sciupi tutto l'effetto. Stiamo parlando di fatti avvenuti secoli prima che la signora Linde nascesse. Jane, questo sistemalo tu. Non ha senso che lei parli visto che è morta. Jane si mise all'opera. Tessuto d'oro da usare come drappo non ne avevano, ma un vecchio copripianoforte di crepe giallo fu un degno sostituto. Non sapevano dove trovare un giglio bianco all'ultimo momento, ma un iris azzurro tra le mani giunte di Anna faceva comunque un bell'effetto. Ecco, adesso è pronta, concluse Jane. Ora dobbiamo baciare la sua fronte serena. Diana, tu devi dire sorella addio per sempre. E tu, Ruby, devi dire addio, dolce sorella. Ricordatevi che dovete essere il più possibile affrante. Anna, per l'amor del cielo, cerca di fare una faccia un po' più allegra. Sai che Elaine giaceva come se sorridesse. Ecco, sì, così va meglio. Allora, spingiamo la barca. La barchetta fu spinta lontano dalla riva e strisciò contro un palo conficcato nel fondale. Diana, Jane e Ruby aspettarono appena il tempo indispensabile per assicurarsi che l'imbarcazione venisse trascinata dalla corrente. Dopodiché si precipitarono verso il ponte e poi attraverso il bosco, oltre la strada e di nuovo giù fino alla spiaggetta dove, nel ruolo di Lancillotto, Ginevra e Re Artù sarebbero state pronte a ricevere la fanciulla candida come un giglio. Per qualche minuto, in balia della corrente, Anna si godette compiaciuta la romantica situazione in cui si trovava. Poi successe una cosa che non aveva nulla di romantico. La barchetta cominciò a imbarcare acqua. In 4 e 4 8, e lei si trovò a schizzare in piedi, prendendo al volo il drappo d'oro e quello nero come la notte, e a fissare con occhi sgomenti una grossa falla sul fondo della barca, da cui l'acqua entrava a fiotti. Il palo aguzzo, conficcato vicino alla spiaggetta, aveva strappato la striscia catramata fissata al fondo. Anna non poteva saperlo, naturalmente, ma non le ci volle molto per capire che la situazione era pericolosa. A quel ritmo la barca si sarebbe riempita e sarebbe affondata ben prima di raggiungere l'insenatura in cui doveva arenarsi. Ma dove erano i remi? No, li aveva lasciati a riva. Anna lanciò uno strillo terrorizzato che nessuno poté sentire. Era impallidita, ma non si perse d'animo e mantenne il controllo. Aveva soltanto una possibilità, una sola. Ero spaventatissima, raccontò alla signora Allan il giorno dopo. Mi è sembrato che la barca impiegasse anni ad avvicinarsi al ponte, mentre l'acqua continuava a salire. Ho pregato con tutte le mie forze, signora, ma non ho chiuso gli occhi, perché sapevo che l'unico modo in cui Dio poteva salvarmi era far arrivare la barca vicino a uno dei pali di sostegno del ponte, in modo che potessi afferrarlo e mettermi al sicuro. In pratica i piloni sono fatti con vecchissimi tronchi e ci sono molti spuntoni e nodi sporgenti. Pregare era giusto, ma non si dice anche aiutati che il ciel t'aiuta? Da parte mia dovevo metterci molto impegno e lo sapevo. Ho solo detto: senti, signore, fa che la barca vada vicino a un pilone per piacere e al resto ci penso io. In circostanze come quelle non c'è proprio il tempo per pensare a una preghiera troppo complicata. Comunque la mia è stata ascoltata, perché la barca è andata a sbattere contro uno dei pali. Subito mi sono buttata su una spalla a drappo e scialle e mi sono aggrappata in fretta e furia a uno spuntone. E sono rimasta lì, signora Allan, stretta a quel tronco marcio e viscido, senza potermi muovere né su né giù. Una posizione poco romantica, certo, ma in quel momento non me ne importava un fico secco. Quando sei appena sfuggita a un sepolcro di acqua e non ti domandi proprio se la situazione è più o meno romantica. Io ho ringraziato Dio come prima cosa. Dopodiché mi sono concentrata per tenermi forte. Sapevo bene che per tornare con i piedi per terra mi serviva un soccorso umano più che divino. La barchetta fu trascinata oltre il ponte e affondò tra i flutti. Ruby, Jane e Diana, che già l'aspettavano sull'altra spiaggetta, la videro sparire sott'acqua e si convinsero che anche Anna fosse colata a picco. Per un attimo rimasero immobili, pallidissime, raggelate dall'orrore della tragedia che si era appena svolta sotto i loro occhi. Poi, urlando disperate, partirono a rotta di collo attraverso il bosco e oltre la strada, senza fermarsi neppure un attimo a guardare verso il ponte. Anna, abbarbicata come l'edera al suo incerto sostegno, le vide passare di gran carriera e sentì le loro grida. I soccorsi sarebbero arrivati presto, però nel frattempo lei si trovava in una posizione davvero precaria, ma soprattutto estremamente scomoda. Passavano i minuti e sembravano durare un'ora ciascuno. Oh, perché non arrivava nessuno? Dove erano finite le ragazze? Erano svenute tutte per l'agitazione? E se non fosse arrivato nessuno? Se lei si fosse stancata troppo, le fossero venuti i crampi e non fosse riuscita a resistere? Anna teneva gli occhi fissi sul minaccioso abisso verdastro sotto di sé, sul liquido scuro che si frangeva in ombre lunghe. E un brivido le corse lungo la schiena. La sua fantasia cominciò a galoppare fuori controllo, suggerendole una serie di raccapriccianti epiloghi, uno peggio dell'altro. Poi, nel momento esatto in cui cominciò a temere di non poter sopportare neppure per un altro attimo la tensione alle braccia e il dolore lancinante ai polsi, Gilbert Blythe passò sotto il ponte sulla barca a remi di Harmon Andrews. Il ragazzo sollevò lo sguardo e, con suo grande stupore, vide una faccetta pallida che lo fissava con occhi grigi dilatati dallo spavento, ma al tempo stesso carichi di sdegno. «Anna Shirley, cosa ci fai lì e come ci sei arrivata?» le chiese allibito. Poi, senza attendere la sua risposta, avvicinò la barca al palo di sostegno e allungò il braccio. Non c'era modo di evitarlo. Anna afferrò la mano di Gilbert Blythe, si calò a bordo e si mise seduta a poppa, sporca e furiosa, lo scialle gocciolante e il drappo di crepe bagnato stretto tra le braccia. Voleva a tutti i costi restare sulle sue, ma era difficile tenere un contegno dignitoso in una situazione simile. «Ma mi spieghi cos'è successo, Anna?» le chiese Gilbert, riprendendo i remi. «Stavamo recitando il poema di Elaine», rispose lei gelida, evitando accuratamente di guardare il suo salvatore. «E io dovevo andare alla deriva fino a Camelot sul barco. Voglio dire, sulla barchetta. Ma poi si è aperta una falla, ha cominciato a imbarcare acqua e io mi sono aggrappata al palo del ponte per non finire in acqua. Le altre sono andate a chiamare i soccorsi. Potresti cortesemente portarmi fino a quella spiaggetta?» Il ragazzo, servizievole, remò fino all'insenatura dove Anna, rifiutando qualsiasi aiuto, saltò agilmente a terra. «Ti sono molto riconoscente», disse piena di sussiego, accennando ad allontanarsi. Ma anche Gilbert sbarcò con un balzo e le posò una mano sul braccio per trattenerla. «Ascolta, Anna», disse in fretta, «non potremmo essere amici noi due. Mi dispiace davvero di averti preso in giro per il colore dei tuoi capelli quella volta. Io non volevo offenderti, era solo uno scherzo, dai. È passato tanto tempo ormai. Adesso penso che i tuoi capelli siano stupendi, sul serio. Per favore, diventiamo amici». Per un attimo la ragazzina esitò. Sotto la sua dignità offesa, sentiva germogliare l'idea che lo sguardo un po' timido e un po' ansioso negli occhi nocciola di Gilbert fosse piacevole. Il suo cuore ebbe un battito insolito, lieve, ma l'amarezza per la sofferenza che quell'episodio le aveva causato restituì subito forza alla volontà che si era fatta incerta. La scena di 2 anni prima le tornò in mente in un lampo, come se fosse accaduta il giorno prima. Gilbert l'aveva chiamata pel di carota e l'aveva messa in imbarazzo davanti a tutta la classe. E il suo risentimento, che alla maggior parte degli adulti appariva ridicolo e sciocco, era sempre lo stesso. Il tempo non era servito ad attenuarlo. Odiava Gilbert Blythe e non si sognava neanche lontanamente di perdonarlo. «No», rispose con freddo distacco. «Io non sarò mai tua amica, Gilbert Blythe, perché non voglio essere tua amica». «Ah, sì? E va bene», Gilbert saltò in barca con le guance rosse di rabbia. «Non ti chiederò mai più di essere mia amica, Anna Shirley, e comunque non me ne importa un bel niente». Il ragazzo si allontanò, remando con tutte le sue forze, e Anna risalì il ripido sentiero bordato di felci che correva sotto gli aceri. Camminava impettita, a testa alta, ma dentro di sé provava uno strano rimpianto, come se desiderasse di aver risposto a Gilbert Blythe in un altro modo. Certo, lui l'aveva offesa, però... Tutto sommato, pensò Anna, forse era il caso di sedersi e farsi un bel pianto. Era esausta. Lo spavento e la fatica di tenersi aggrappata al tronco stavano cominciando a farsi sentire. A metà del sentiero incontrò Jane e Diana che correvano verso lo stagno in preda al panico più totale. Si erano precipitate a Orchard Slope, ma non avevano trovato nessuno perché i signori Barry erano usciti. Quando l'avevano saputo, Ruby Gillis era stata presa da un attacco isterico e le ragazze l'avevano lasciata cercare di ritrovare la calma da sola mentre loro attraversavano la foresta stregata e il torrente per raggiungere Green Gables. Purtroppo non avevano trovato nessuno neppure lì, perché Marilla era andata a Carmody e Matthew stava facendo il fieno nei campi dietro casa. «Oh, Anna!» esclamò Diana senza fiato, gettandole le braccia al collo e scoppiando a piangere per il sollievo e la contentezza di rivederla. «Oh, Anna! Noi credevamo che fossi annegata. Ci siamo sentite 3 assassine perché ti avevamo obbligata a interpretare Elaine e Ruby ha avuto una crisi di nervi. Oh, Anna, come hai fatto a salvarti?» «Mi sono aggrappata a uno dei pali di sostegno del ponte», spiegò lei sfinita. «Poi è arrivato Gilbert Blythe sulla barca del signor Andrews e mi ha portato a riva». «Oh, Anna, che bel gesto! È così romantico», commentò Jane, che finalmente aveva ritrovato la parola. Quindi adesso gli rivolgi di nuovo la parola? Neanche per sogno, scattò la ragazzina, e non voglio mai più sentire la parola romantico, Jane Andrews. Mi dispiace per lo spavento che vi siete prese. È stata tutta colpa mia. Devo essere nata sotto una cattiva stella. Ogni volta che faccio qualcosa metto nei pasticci me o le persone a cui sono più affezionata. Diana, tu hai perso la barca di tuo padre, mi sa tanto che d'ora in poi non ci permetteranno più di andare a remare allo stagno. E il presentimento di Anna si dimostrò più giusto di quanto le succedesse di solito. Quando le ragazzine raccontarono cos'era successo quel pomeriggio, in casa Barry e in casa Cuthbert si scatenò una grande agitazione. Santa pazienza, Anna, avrai mai un po' di buon senso? Si lamentò Marilla. Oh sì, credo di sì, Marilla, la rassicurò lei, ottimista. Nella confortevole solitudine della sua cameretta, in mansarda, si era abbandonata a un gran pianto che le aveva calmato i nervi, restituendole la sua solita contentezza. Secondo me, adesso le mie possibilità di diventare una ragazza giudiziosa sono maggiori di prima. Non vedo come, fu il commento sconsolato di Marilla. Beh, spiegò Anna. Oggi ho imparato una lezione importante. Da quando sono arrivata a Green Gables ho combinato un sacco di guai e ogni volta ciò che è successo mi ha aiutato a guarire da un grave difetto. La faccenda della spilla di ametiste mi ha insegnato a non toccare le cose altrui. La paura che ho avuto nella foresta stregata mi ha insegnato a non lasciarmi trascinare dall'immaginazione. La torta allo sciroppo analgesico mi ha dimostrato che quando si cucina bisogna stare sempre molto attenti. L'esperimento di tintura dei capelli mi ha guarito dalla vanità. Adesso non penso più ai capelli e al naso, almeno molto di rado. Il pasticcio di oggi mi guarirà dal mio esagerato romanticismo. Sono giunta alla conclusione che è perfettamente inutile avere un animo romantico qui ad Avonlea. Nella Camelot di tanti secoli fa era decisamente più facile. Ma al giorno d'oggi il romanticismo non è più apprezzato, né utile. Noterai un gran miglioramento in me, Marilla, ne sono sicura. Me lo auguro, ribatté scettica la donna. Ma quando Marilla se ne fu andata, Matthew, che era rimasto seduto in silenzio nel suo angolo, si avvicinò ad Anna e le posò una mano sulla spalla. Non perdere del tutto il tuo spirito romantico, le sussurrò con l'abituale timidezza. È una buona cosa averne un po', non troppo, certo, ma un po'. Tienitelo stretto, Anna, tienitelo stretto.